Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Spesso spendiamo soldi e ne siamo consapevoli perché ci sono le tasse, la spesa che facciamo tutti i giorni. A volte capita di spendere soldi a nostra insaputa, facendo una citazione ormai famosa, a nostra insaputa ma con nostro dispiacere. È il caso, ad esempio, della tassa di concessione governativa per i cellulari. Questo è l'argomento di cui parliamo con l'Associazione Difesa Consumatori, oggi con l'avvocato Gioia Barbato. Bentornata, è un po' che non ci sentiamo. Ciao Mirko, buongiorno a tutti. Allora, intanto spieghiamo che cos'è questa tassa che io personalmente non sapevo di pagare. Spieghiamo che cos'è. Però invece paghi. Allora, la tassa di concessione governativa, che viene poi anche conosciuta con l'acronimo TCG, è la tassa che noi corrispondiamo allo Stato in quanto siamo beneficiari di alcuni provvedimenti. Nel caso di specie, quello che ci interessa oggi è quella tassa che noi paghiamo per avere un abbonamento di telefonia mobile. Tanto per intenderci, tanto per capire il quantum del contributo che noi versiamo allo Stato, allora per tutti coloro che hanno un abbonamento di telefonia mensile solo per uso affari, quindi per intenderci intestato ad un'azienda o ad una ditta individuale, il costo mensile che noi corrispondiamo allo Stato è di 12,91 euro, mentre per tutti i privati è di 5,16 euro. Questa è in sostanza quella che è la tassa che noi mensilmente paghiamo per usufruire di un abbonamento di telefonia mobile allo Stato. Ecco, abbonamenti e non le ricaricabili. Esatto. Perfetto, esatto. E quindi già questo fa differenza, perché poi la maggior parte degli utenti hanno le ricaricabili, ma c'è anche chi ha appunto l'abbonamento. E insomma, alcuni euro al mese che se ne vanno, alla fine di tanti anni fanno una certa cifra. Esatto. Diciamo che poi questa è una tassa che, se non ricordo male, è stata introdotta nel 95. Però ultimamente ci sono insomma delle belle notizie per noi consumatori e per tutti coloro che appunto utilizzano questo tipo di abbonamento. Infatti, a partire dal 2003, quando è entrato in vigore il codice delle telecomunicazioni, che ha appunto recato delle disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi di comunicazione, questa tassa non è più dovuta. Infatti questo codice ha implicitamente abrogato la tassa in vista poi della liberalizzazione di quelle che sono le comunicazioni. Quindi proprio in virtù di questa abrogazione noi abbiamo la possibilità innanzitutto di non pagare la tassa e secondo poi di chiedere un rimborso di quanto abbiamo indebitamente pagato nel corso degli anni. Allora, per non pagare la tassa, cioè da adesso in poi, bisogna fare qualcosa o è automatico? No, in realtà nel momento in cui noi riceviamo il bollettino di pagamento per corrispondere appunto a questa tassa allo Stato, noi dobbiamo innanzitutto provvedere a mandare una lettera di diffida all'Agenzia delle Entrate, che è l'ente che è deputato alla riscossione di questa tassa, e al nostro operatore telefonico. Diffida con la quale noi sostanzialmente facciamo riferimento, cioè esprimiamo appunto questo concetto che la tassa è stata abolita e che ci sono molte sentenze dei giudici tributari regionali che dichiarano l'illegittimità della tassa di concessione governativa e pertanto chiediamo l'esenzione dell'imposizione della tassa, nonché il rimborso di quanto legittimamente pagata. Tanto per intenderci, l'Adico ha messo a disposizione per la diffida un modulo che verrà poi distribuito gratuitamente a tutti i nostri soci. Ecco, allora si può accedere al sito dell'associazione e, essendo soci, poter chiedere il rimborso. C'è stato anche, esatto. Ci sono stati anche casi, insomma, si dice giurisprudenziali, che hanno potuto far arrivare a questa decisione. Sì, tantissimi, tanto per intendersi, dal 2003 ad oggi tutte le pronunce dei tribunali regionali, quindi dei TAR, hanno dato ragione al contribuente, quindi hanno non solamente dichiarato l'illegittimità della tassa, ma anche hanno concesso il rimborso. Solo per essere precisi, è bene precisare che la procedura sia per l'esenzione sia per la richiesta di rimborso, viene articolata in due fasi. Una prima fase, come detto prima, che dove il procedimento si instaura con la diffida, che sostanzialmente è una lettera che noi facciamo gratuitamente ai nostri soci, dove chiediamo di non pagare più e di avere il rimborso della tassa. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate o la compagnia telefonica non ci dia risposta o dia una risposta insoddisfacente, c'è la possibilità poi di adire alla commissione tributaria, che è appunto che è l'organo deputato a decidere in materia di tributi, e per poi ottenere giustizia in sede tributaria, in sede giudiziale. Alla fine si possono avere indietro anche alcune centinaia di euro, giusto? Sì, noi abbiamo fatto un calcolo che più o meno i rimborsi per i privati è di 185,76 euro, mentre per gli altri, tutti coloro con abbonamento a vita aziendale, è di 484,76. Questo è un calcolo che abbiamo fatto noi in via approssimativa, che poi insomma va calibrato caso per caso in base agli anni in cui hanno pagato indebitamente la tassa. Diciamo che la in media questi sono tutto il quantum di rimborso che viene riconosciuto. Ecco, e allora chi è titolare di un abbonamento al cellulare, sia privato che aziendale, può anche con l'assistenza dell'Adico avere un supporto per arrivare, insomma, di questi tempi anche 200, 300, 400 euro possono fare la differenza. Beh, certo, poi soprattutto visto che diamo gratuitamente il modulo, quindi uno non ha niente da perdere, ecco, quindi tutti coloro che sono nostri soci possono gratuitamente usufruire di questa modalità di riscossione, vogliamo chiamarla così. E allora una buona notizia, ogni tanto soldi che possono tornare indietro, e speriamo che tornino prima possibile. Grazie allora all'Adico per questa segnalazione, all'avvocato Gioia Barbato per le precisazioni legali. Buona giornata. Grazie a te, buona giornata anche a te, arrivederci. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.